accorga di me per non sbagliare, educato mi saluti anche se non sono io. Prestami la tua penna, amico mio, io resto qui sulla porta e controllo se chiuso il gas, la finestra che ha già chiuso.